Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero. Ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, che una stella, uno starnuto. I girasoli con gli occhiali mi hanno detto stai attento alla luce, e che le lune senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, sono altro che luce.